Italia in controluce. Buongiorno a tutti, oggi è il 18 di giugno e oggi parliamo della mossa di Silvio Berlusconi sul patto con l'Unione Europea sul deficit, perché a sorpresa ieri, mentre si avviavano nel nord Irlanda i lavori del G8, Silvio Berlusconi ha cercato di scompaginare le carte e ha chiesto al governo e alla maggioranza di avere più coraggio, battere i pugni sul tavolo in sede europea, chiedere che si possa sforare il limite del 3% di deficit e il fiscal compact per far ripartire l'intera economia. Secondo Berlusconi nessuno ci manderà fuori dall'Unione Europea e dalla moneta unica. Proviamo a sentire la voce di Silvio Berlusconi ieri pomeriggio. Qui in avanti il fiscal compact e il limite del 3% all'anno ve lo potete dimenticare. Come? Non abbiamo capito. Ci volete mandare fuori dalla moneta unica? Fatelo. Ci volete mandare fuori dall'Unione Europea? Ma no. Beh, vi ricordiamo che noi versiamo 18 miliardi all'anno e ce ne ridate indietro solo 10, ma chi mai ci manda fuori e dall'una e dall'altra parte? Quindi bisogna che chi va su non batta i tacchi di fronte a queste autorità di Bruxelles. Questa è una parte del discorso e invece pochi minuti fa Berlusconi ha detto: si sta cercando di farmi apparire come un nemico dell'euro e dell'Europa, niente di più falso. Ma voi che cosa ne pensate? Ha ragione Berlusconi quando dice che, perché questo lo ha detto e tutti lo abbiamo sentito, che il governo deve chiedere all'Europa di la possibilità di sforare il limite del 3% del deficit e che questo è stato anche uno dei punti di maggiore discussione in sede europea, ma non solo, anche in campagna elettorale. Voi siete d'accordo? 349-238-6666. Siamo collegati con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno Daniele. Allora, diciamo innanzitutto che il Cavaliere, appunto, come hai accennato tu, è intervenuto poco fa con una nota per difendersi dalle accuse che gli sono piovute addosso dopo le sue parole di ieri. Ha detto: si sta cercando di farmi apparire come un nemico dell'euro e dell'Europa, ma non c'è nulla di più falso, e ha spiegato il senso della sua uscita di ieri nel bel mezzo del G8. Ha detto: quanto detto ieri va a difesa certamente non contro l'Europa, è un'Europa che si spinga finalmente sulla strada del rilancio, della creazione di nuovi posti di lavoro. In questo senso il mio appello, ha spiegato il Cavaliere, deve essere inteso come un incitamento, un incoraggiamento all'attività di quel governo che stiamo sostenendo con assoluta realtà. Dunque quasi una retromarcia che è un po' coerente con quella strategia che spesso usa Berlusconi dello stop and go, quindi prima l'attacco poi il sostegno al governo. Ma appunto facciamo un passo indietro. Ieri è stato davvero un duro affondo, un doppio affondo contro l'Unione Europea e contro il governo. Il Cavaliere aveva appunto incitato l'esecutivo a sforare il limite del 3%, a non rispettare i vincoli del fiscal compact, aveva detto basta con i diktat dell'Europa, e tutto questo nel giorno in cui Ricoletta faceva il suo esordio al G8 e mentre stava proprio cercando di accreditare presso gli alleati una Italia invece decisa a proseguire un'azione concordata. Di lì una pioggia di critiche, secco il commissario UE agli affari economici Olli Rehn, che all'Europarlamento aveva ammonito assicurare che il deficit resti sotto il 3% e fare le riforme richieste sono la chiave per la ripresa in Italia. Olli Rehn che poi è intervenuto nuovamente questa mattina con una nota dicendo che la Commissione ha piena fiducia che l'Italia rispetterà il limite del 3% di deficit perché le regole del patto di stabilità sono chiare, sono ben note. Poi questa mattina è intervenuto anche il Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz con una battuta, ha detto: Berlusconi d'estate si surriscalda sempre. Invece è fredda la reazione di Enrico Letta, il quale, dopo aver ribadito l'impegno dell'Italia a mantenere il deficit sotto il 3%, aveva chiosato sulle affermazioni di Berlusconi dentro la sala non c'è stata nessuna eco, nessun rilievo, nessuno ne ha parlato, come dire, un'uscita che non è meritevole di attenzione, mentre Duro era stato il segretario del PD Epifani, così facendo Berlusconi indebolisce l'Italia. Ci si chiede poi quale sia il motivo che abbia spinto Berlusconi a pronunciare queste parole, perché in realtà diciamo che sono parole che Berlusconi ha detto più volte, concetti che ripete da tempo, ma piuttosto quello su cui ci si interroga è la tempistica, il metodo. Chi parla di nervosismo in vista della sentenza della Consulta attesa per domani, e chi pensa che invece voglia come dire, presentarsi come, come regista della politica economica in Europa. Il Cavaliere, come dire, starebbe un po' lavorando per far intestare al PDL i risultati poi che ci saranno, che si stanno maturando in vista del vertice di Bruxelles di fine giugno. Daniele. Bene, bene, grazie, grazie mille ad Alessandra Schipoli. Questa è la situazione. Perché stiamo parlando del 3%? Perché stiamo parlando di questo limite? Perché questo è il limite che è stato imposto, diciamo, dall'Unione Europea, ed è un limite per quanto riguarda il nostro deficit. In molti, in campagna elettorale, molti, anche a sinistra, quindi non è solo un'idea di Berlusconi, ma anche del centro-sinistra, in molti avevano detto che bisognava andare a rinegoziare con l'Unione Europea questi patti che erano stati siglati e che secondo alcuni erano dei tritacarne, cioè dei troppi politica di rigore, poco investimento, e questo è quanto. Voi che cosa ne pensate? 349-238-6666, cioè Berlusconi è solo una mossa politico-elettorale quella di ieri, oppure secondo voi c'è qualcosa di più, come dire, di più forte, di più concreto? Il 3% è un falso problema, dice Maurizio da Milano. Tagliamo la spesa, che è meglio. I tacchi da 12 li ha battuti lui nel 2011, cacciandoci tutti nei guai, scrive Angelo da Milano. La proposta di Berlusconi sembra molto quella inserita nel programma del Movimento 5 Stelle, scrive Roberto da Modena. Giuseppe da Sesto si chiede se lui ha combinato qualcosa in Europa quando era primo ministro. La stessa cosa lo dice anche Guido Mattucci, che ha pubblicato un post pochi secondi fa su Radio 24 Italia in Controluce, aggiungo giustamente, si chiede il nostro ascoltatore se poteva pensarci prima. Ma se non pagassimo le tasse anche lui ha contribuito a mettere, si può fare, oppure ho delle conseguenze, scrive un altro ascoltatore. In Italia uno dice una sciocchezza, peraltro smentita il giorno dopo, per voi diventa un caso. Eccoci qua, è sempre colpa dei giornalisti, è sempre colpa nostra. È fantastico questo Popov, una persona che ci segue però in modo instancabile, e quindi lo saluto. Letta è un altro tecnocrate come Monti, che sta contribuendo ad affossare ulteriormente un paese già alla frutta. È meglio poveri e liberi che schiavi europeisti, scrive Onofrio. Berlusca Casciabal, cioè dice tal Giancarlo da Como, Casciabal vuol dire cacciabal. Certo che dare importanza a quello che dice Berlusconi è come pensare che Letta esista. Propaganda pura e semplice, propaganda paga sempre, scrive Maurizio da Milano. Perché non l'ha fatto lui quando aveva una maggioranza bulgara, scrive, ci ricorda Viola da Milano. Bene, un altro da Maurizio scrive, Cavaliere ha fatto enormi danni al paese, ma in questo caso ha ragione. Bene, grazie a tutti quelli che hanno scritto e a quelli che hanno ascoltato. Domani torniamo, parleremo di maturità, e ci sarà al mio posto Maria Piera Ceci.